Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci arrivati anche all'appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, tra un ombrello e l'altro. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo di colossi che hanno spesso posizioni predominanti sul mercato, ma che per fortuna e anche per merito delle associazioni di consumatori a volte vengono così rimessi in carreggiata con multe corpose, come è successo ad esempio alla Telecom, 103,7 milioni di euro. Cos'è successo? Sì, una bella cifra, come hai detto te, che l'antitrust ha pensato bene di comminare alla Telecom, perché sappiamo che la Telecom comunque è sostanzialmente l'unico ente che oggi può dare un certo tipo di servizio sia per quanto riguarda la telefonia fissa e la telefonia mobile, e in questo l'antitrust ha verificato che c'è una posizione ancora troppo dominante nel mercato che sostanzialmente non favorisce la libera concorrenza. Addirittura ci sono dei chiari episodi in cui sostanzialmente la Telecom la scoraggia, e poi conseguentemente a questo c'è la solita partita dei servizi proposti che non vengono garantiti, che messi assieme ha pensato comunque l'antitrust di intervenire su quelle che sono state le segnalazioni che l'associazione dei consumatori, quale anche l'Adico in questo periodo, ha sempre segnalato, e finalmente giustizia è stata fatta. Ecco, in questo caso giustizia, ma ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, si riesce anche a vincere contro altri colossi. Sì, allora sostanzialmente che molte volte le persone, quando si trovano a scontrarsi con questi colossi, pensiamo sia sul mercato dell'energia elettrica come del gas, ma anche quella della televisione, le persone normalmente tendono sempre un po' a scoraggiarsi, perché sostanzialmente di fronte a certi colossi i piccoli consumatori tendono troppo facilmente a farsi intimidire e a lasciar perdere. Invece siamo stati soddisfatti, perché comunque molte volte invitiamo sempre i consumatori a contattarci per segnalare le loro disavventure, tante disavventure messe assieme, la perseveranza di qualcuno a voler ottenere ragione e giustizia, portano a volte dei risultati. Questi risultati questa volta li ha quantificati l'antitrust. È chiaro che la Telecom farà ricorso al TAR, perché sostiene che la vicenda non è proprio andata così, ma quando si mette in moto questo meccanismo sostanzialmente si ottiene sempre dei risultati, che speriamo in futuro i consumatori potranno beneficiarne. A cosa bisogna stare attenti in generale, insomma, quando ci si scontra con questi colossi? Cioè, un consumatore che si trova ad avere un disservizio o a protestare magari per un servizio che non arriva o per un servizio non voluto, c'è risposta dai customer service, cioè dal servizio clientela? Sono efficienti per quello che vi risulta, oppure tendono a rimandare o a spostare il problema? Beh, normalmente sono molto furbetti, perché sappiamo che i call center sostanzialmente con grande difficoltà risolvono il problema, normalmente recuperano la segnalazione, la inoltrano agli uffici competenti, poi se ti va bene riesci a ottenere un contatto, molte altre volte rischia sempre di disperdersi tra un ufficio e l'altro. Io stesso sono rimasto vittima di un servizio che ho chiesto e non mi è stato ricevuto. Quando ho disattivato tutto quanto, internet e telefono fisso, mi è arrivata una comunicazione un mese dopo che è tutto a posto e posso riprendere il normale servizio, e sono curioso di vedere come finirà questa vicenda. Però questo per far capire che certe compagnie, quando devono operare in un certo modo, non guardano in faccia a nessuno, e sappiamo benissimo che ci sono atteggiamenti anche di call center che sono incredibili e anche sconsiderati nei confronti dei poveri utenti e anche molte volte dei poveri pensionati. Pensiamo per esempio alla prima grande istituzione del servizio delle opposizioni, che dovrebbe impedire a qualsiasi società di poterci contattare a casa tramite telefono, e in realtà scopriamo che continuamente il nostro telefono squilla e riceviamo proposte commerciali. Di cui io invito i consumatori che si sono iscritti al registro delle opposizioni di tirare giù il numero e il nome della ditta che è stata contattata, perché anche qui sono previste delle sanzioni molto molto pesanti. Poi, per quanto riguarda la tua domanda, amico, certamente i colossi normalmente cercano di fare un po' il bello e il cattivo tempo, nel caso della Telecom è chiaro, come in altre compagnie, che i consumatori cercano di desistere a cambiare compagnia, perché quando detengono, perché molte volte sa, hanno paura che il servizio diventa carente, perché magari il contatore nel caso di un'altra società, come la linea internet nel caso di questa, hanno sempre paura che nel caso di disservizi poi non hai più, non hai più un interlocutore a cui rivolgerti. Torniamo alla Telecom per affrontare anche la questione tariffe. Ormai la linea fissa sta un po' morendo, e anche le proposte, le proposte commerciali, le pubblicità che si vedono lo fanno capire, nel senso che tutti i contratti che vengono proposti sono per gli smartphone, per i cellulari in generale. Però mi pare che l'offerta complessivamente non, cioè difficilmente si trova un'effettiva differenza di prezzo, cioè c'è ancora un effetto cartello secondo te, secondo voi, tra le compagnie, oppure no? Guarda Mirko, se uno mi dovesse chiedere se esiste in Italia un settore in cui la liberalizzazione ha funzionato e ha portato dei risultati, l'unico settore, e dico l'unico, in cui ha funzionato abbastanza bene è solamente sulla telefonia mobile. Tutto il resto credo che non si può parlare di libera concorrenza o di reali benefici per i consumatori, perché io oggi sfido veramente a trovare una compagnia che sia più conveniente rispetto all'altra. In realtà quello che deve stare attento il consumatore quando decide di cambiare operatore e di uscire dall'autorità del controllo che ci sono nelle comunicazioni o nelle telecomunicazioni e andare sul libero mercato, chiaramente qua bisogna essere consapevoli che si va a sottoscrivere un contratto che sostanzialmente non viene più regolamentato da un'autority ma viene gestito da un privato, e in questo senso bisogna fare e stare molto attenti sulle condizioni contrattuali, perché poi ci sono delle penali che si va incontro quando si recede prima o rispetto a quelle che sono la scadenza naturale dei contratti, e soprattutto bisogna stare molto attenti a quelle che sono delle offerte che normalmente, io dico a volte, sono di accesso, ma passati i 6 mesi, 4 mesi o il primo anno, poi in realtà vanno a modificare completamente le tariffe e gli importi. E quindi attenzione sempre, occhi aperti, orecchie aperte, soprattutto ai consigli dell'Adico. Grazie al Presidente Carlo Garofolini, appuntamento la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.